che balla più che altro e basta. E con quella sarda, di Codiri. Perché c'ha tutto l'impatto di respirazione, capito? Cioè fa a volte respirare come si vede. Si risponde con quella sarda, di Codiri. Di Codiri. Attenzione, sentero compartir nuevamente canciones muy hermosas. Asita. Tenemos invitados especiales. Le segui lì qua, si chiamano, aspetta, su Facebook, non so se ci sei. Si chiama Luis Alberto Caizza Vega, seguili anche tu. Vai, scrivi Luis Alberto Caizza Vega. Tipo, non so se li conosci, però c'erano i Vurù di Ghicci e i Santa Fe, quelli che sono in spagnolo a Sassari. Cazzo Ghicci, boh. E tu scrivi su Facebook Luis Alberto Caizza Vega e segui. E fanno musica spagnola. Ah, ho capito. No, io non ci sono su Facebook, Lu. C'è il mio profilo, ma non ci sono io. Vabbè, dai. Due risette ce le abbiamo fatte, dai. Io vi saluto, me ne vado a soggiorno alla Marina, la compagnia Marina che è sola. Ugu ciuccio, ci sentiamo domani, dai. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, grazie, ci aggiorniamo. No, io rimango ancora un po' qua, dai. Esce a vedere la partita, ma ti vini. Oh, non ve lo fate più. Pesce Napoli, l'Inter primo domani. Cappa. Come c'è andato il primo giorno? La bacchio, okay. Ehi, oh yeah. Non viene la bacchio a me ancora, quindi Che bello che è, poltrone. Io, ma sai cosa pensavo qua? E c'avevi un cane molto più grande. E invece era quello lì, era. No, quello è un bulldog inglese, anzi, ho passato la potenza. Ho chiuso a tutta la... c'avevo 20 watt, se non scalda un bel radio, va giù gas. Ho letto, quello è un bulldog inglese fuori Italia. Se vedi i bulldog inglesi sono più piccoli di quello, quello è molto più grande. Sì, però io pensavo che non era quella razza lì, io pensavo che era un cagnone molto più grande. Ma quello è bravo, non fa di male una mocca che su cane. Cioè, quei tipi di cane di solito sono tranquilli. Ehi, troppi palle sono, già è bello tosto tu. Sì, è più o meno la vita come quello che c'ha Gianni, così un molosso. Sono così, il mio è un po' più ciccione, più robusto rimane, mangia il braffo. No, ma poi a te t'ha già visto altre volte. E a Natalino gli si attacca da robe di ciuria va. Oh, cosa, un lupacchiotto, è bravo Bovarino. È poltrone, quella razza di cane sono poltroni un bel pure. E poi chi cercate sempre Drummiddo? Ma ti faccio la volta va ti asciutti. È Drummiddo, c'è un raggente, va, Lorenzone, Robledo e Nando. Ci vede, c'è un capo pari, Benito Urco. Ma è fatto così, è bravo. Oh, però ti dirà, mamma mia, è giocherellone proprio. Ah, già è bravo, non più palle, però già è bravo. La mattina mi è così, sta sempre andando, tornando, vuole uscire, vuole andare a turrare, invece la sera, oh, è Drummiddo, adesso si sveglia domani mattina alle 10. Caro Antonello, è così, in definitiva. E bisogna tirarselo uno con l'altro, la verità. Tirassero uno con l'altro, voi ce li gani. Vabbè, bisogna fare così. Uno se la tira con l'altro, il discorso è quello. Vabbè, ti piacerà il cane, però è piccolino. Il mio già è un cane da 30 kg, che ando di dire a dire, anzi adesso è vecchiotto, mi... c'ha 9 anni a tocco il cane, non è che... però è ginnico ancora, bello tosto, mi... Prima dove era questo cane? Io non me lo ricordo. Sempre con voi? Sì, l'hai visto un paio di volte, l'hai portato qualche volta la bombola da... qua, io ero giù, lui basta che vera una o due volte e poi già si ricorda. Altri non li fa entrare manco al portone. Anche su della bizza, ha mollato la bizza in terra, la giomatica ci dai cari. Ha suonato il campanello, io ho chiuso la porta, lui col muso l'ha aperta e si è attaccato all'anca. La giomatica vira la buca, ha mollato la bizza, ciao, ciao, ciao, e ciao, e i soldi, e passi tu e paghi, ciao. Ma basta prenderlo a giocare, ecco, cioè, tranquillo già. Oh, com'è venuto subito? Non hai visto che era fuori a giungà, mamma mia! Perché tu l'hai chiamato per nome, capite? Filippo, dove hanno già il nome, sa, questo mi conosce, aiuto. No, già è bravo, con chi vuole lui c'è bravo. Altri di musica, che fa cagare lo buzzino, a quello le bombole, lo stesso, ah, quando viene Mario, qua viene Mario a portarmi, no, da giù. Il primo periodo non entrava, ma lasciava solo nell'ascensore, perché non lo faceva entrare. Poi un giorno l'ho messo qui in sala e ho detto, entra. No, le musica di organi, entra, siediti, guarda, gioca, guarda, guardalo, toccalo, ha giudito. No, le musica, toccalo. E allora lì sono diventati amici, e va quando sono amici. Che? Mario sta arrivando, anda l'ascensore, la gitta. Come ti dici dall'ascensore, appoggia la bomba in terra, le salta addosso a giocare. Prima lo muscingava. Lo so, dipende il cane, perché hanno un po' paura, hanno un pochettino di paura. Anche il rumore della bombola, poi dopo già si abitua, cioè lo so perché anche altri cani mi hanno, cioè molti invece giocano con me. Una volta Lugani di chissà Sacchetti, chissà che va nero, le caldaie lì in via Catarocchino, avevano uno di questi cani, come ti vedavi tu prima, ma musicato la giaffa. Io perché questo lo tengo a casa, perché non va d'accordo con gli altri che c'ha mio genero, c'ha un preso a canario, Filippo le passa sotto me, è alto un metro me, pare una lama, le pesa 70 kg, capito? E un giorno gli ha rotto le balle, Filippo gli ha musicato la zampa, perché non ci arriva a fare altro, solo le zampe lo può musicare. Chito che è più alto, l'ha gran fatto lo lugudo, l'ha buttato sui buntimi. Sai che l'ha fatto? Filippo l'ha musicato? No, il cane di mio cognato, ma mio cognato, mio genero, c'è un preso a canario, che è uno dei più grandi cani che esistono, è alto, casta un metro, da danchi va, ti appoggia i piedi sopra la, mio genero è alto più di 1,75, ne mette le zampe sopra le spalle, capito? Un gabbo arriva allo sportello della macchina, tenta un gabbo dritto al finestrino, pesa 70 kg quel cane. Filippo gli ha rotto le balle, siccome è più piccolo e più basso, quello è un bel alto, l'ha cotto un mosso a capo, a giumare un buca. Verino, Monello. Non vanno d'accordo, poi sono tutti due maschi, ecco perché se non l'avrei portato assieme a quelli lì, sarebbe stato lì, capito? A me l'avrebbe avuto compagnia, ma sono due bestie. Uno è un pesacanaro, l'altro è un pastore del Caucaso, sono dei cani da 200 kg quasi. Ma stai scherzando, se lo mangiano Filippo. Ma poverino però, lui è bravo, vabbè lui è più piccolino, vabbè pure lui era un pochettino, magari ha rotto le scatole, l'ha fatto, l'ha musicato, meno male non gli ha fatto male. Aspetta, sto finendo, ci siamo domani. State bene, buonanotte a tutti e due, siamo quelli che ci sono, 4, 5, 6, quelli che sono. Ci vediamo domani, eh? Buonanotte a tutti. Sto chiedendo. Ciao Antonio, dai. Saluta Simona. Buonanotte, buon tutto, già ci aggiorniamo domani. Avanti Antonio. E capa, buonanotte Antonio, ci risentiamo alle prossime. Ciao ciao. Via, ciao ciao a tutti, buonanotte. Sì, ma perché ho rompi palle, hai capito, Anto? È andato a rompere le scatole e Guido si è girato. E la, l'ha morsicato dietro il collo e ce l'ha bucato, dice, non gli ha tolto subito Mario, se no guai, avrebbe fatto male. Non si è lamentato, ma ho visto che usciva il sangue, l'ha bucato, capito? Perino, allora bisogna che lo tenete voi, almeno sta più tranquillo. Infatti d'estate quando andiamo in campagna lì da mio genero i cani sono chiusi, lui è libero ma i suoi sono chiusi, capito, dentro il recinto, se non si affarrano. Infatti chiaro amicizia lunga, e questa è una delle ragioni per cui io ancora non ho fatto quello che devo fare, tanto te l'ho spiegato, no? Lui c'ha sta mania dei cani, e quindi non è che giù andrà a briare, se no già te lo spiego un altro momento. Capa, già ti ho mezzo capito, va. Cioè, se tu preferi i cani a quello che dobbiamo fare, allora tenere i cani e io vado avanti per la mia strada, no? Come si dice, è così, purtroppo. Vabbè, adesso vediamo più avanti, decidiamo cosa fare. Grazie, ho capito perfettamente quello che tu vuoi dire. Penso che non è accettabile, poi non lo so. Già mai capito, non è accettabile, ma è così. È roba sua lì e quindi è così. Vabbè. Mo vediamo, io sto andando avanti col mio progetto, poi si vedrà, si diventa un canile, si ruga, o si diventa una casa di civile abitazione. Sì. Già bisogna, cioè se si comincia, io ti dico una cosa facile, se si comincia già così bisogna alto là, bisogna vedere un po' la situazione, non ti farò sangamaro, è finito il discorso, capito? Infatti è capito al volo, infatti ha giocato subito alto là, se non sarei già stato lì, però ha giocato alto un attimo, contiamo fino a 10, tu i cani vuoi, sì, è il mio mondo, perfetto, tieniti il tuo mondo che io mi tengo il mio, adios. Hai fatto bene, no. Non nasce una guerra, non nasce, là. Cioè, si arriva così da voi alla fine, cioè, già ho capito io, alla fine da Ghiso si passa altro e non andrà bene. No, assolutamente, c'è mia figlia lo già, assolutamente, infatti io condivido perfettamente le sue idee, io mi tengo le mie. Capito, poi già ti dico in verticale, no, adesso non è il momento di raccontare niente, però io ti ripeto, sto facendo quello che ti ho detto, vado avanti, il mio progetto è sempre quello, cioè non è lì, è leggermente più su, non ci sono problemi, non cambia assolutamente niente. Sì. Già ne parliamo in verticale, ma io ti ho capito. Ho capito per filo e per segno, ho capito. Lo so. Lui è amante molto dei cani, molto, però basta, cioè. Ne hai due grossi, ma grossi, ma due mostri di cani, bellissimi, lì. Ne hai altri due a casa, sono quattro, basta, cioè. Se vuoi devi fare un canile, allora fai un canile, invece c'è un clacco, qua deve nascere il canile, no basta, ma se noi abbiamo un progetto, andiamo avanti, investiamo dei quattrini e poi invece di finire a Gaza tutti fai un canile, allora pazienza. Sì. Allora Nidrome la notte, tro. No, ma lascia perdere, già te lo dico in verticale, sono già passato l'estate scorsa, due estati fa, perché quest'estate non siamo andati a nessuna parte in Tugazzo e Goffet, ma due estati fa, in generale, ma lascia perdere, lascia perdere, non ci dorme la notte, tutti i cani che abbagliano, vattene, ma tennate, diventa una cosa un po' troppo sporca, capito? Allora io, Filippo, è bravo, bravo, non rompe scatola a nessuno, cioè si bosa in chivi, l'attaggio compreso. Guarda, alto là. Ho capito, dai, che tu c'hai il tuo caratterino, cioè, ti ho capito, giustamente, cioè non si può. Io me lo gioco mia, sai quanti anni ci ho condiviso con questa cosa? Con chissà di Yosu, cioè, va via Rigani, grazie, non si poteva dormire a notte, mi. Cioè, tra chissà di Yosu e chissà chi viene di fronte, vera, un concerto, vera, cioè io li voglio bene, però a questi livelli non si può. Lo sto dicendo, Filippo già l'hai visto, Filippo sta dentro casa, anche là in campagna sta dentro casa, dorme dentro, è come un gatto il mio cane, si trova dentro casa come un gatto. Quei due sciolti fuori la notte, fatto agli atti, gurrendi, cioè cazzo, mamma mia, no che mi vede leggermente nervoso a me, leggermente nervoso a me. Come qualcuno si avvicina al cancello, Bastia, cioè due, tre, quattro, Manzano, mani ravvini, mani richiudi dentro la gabbia, li disapri dentro, e boh, ma non si possono lasciare due cani del genere, non si possono lasciare, capito, una cosa indescrivibile per la sicurezza, ma quale sicurezza? Se tutto viene delle camere, se tutto viene tutto illuminato al giorno, ma la sicurezza? A risare che si gana, io la notte ho dormito. Non si poteva, tu credimi come un fratello, non si poteva. Me lo dici, ha passato la potenza, bene va. Ma me lo dici, ti sto dicendo che io ci ho passato anni così, e se ti dici cosa, guarda che non si può dormire, era un affarratorio, era. Tra ghisa di osso a pian terreno vanno via tre o quattro chi su di fronte di me, cioè un giorno mamma mia, cioè me sono dovuto uscire perché sennò quasi bisticciavo, cioè non si poteva dormire a notte veramente. Da poi è ghidi di rubare a fondo, cioè io la troce ho vissuto bene da una parte, ma con ghisa storia non si poteva dormire. Stavo male, veramente. Soprattutto c'erano dei giorni che io necessitavo di dormire. Non ci poteva dormire. Cioè, ma stiamo scherzando, stiamo. Io, cioè, tanto di rispetto, però non si buca. No, beh, tu lo sai, io sono amante molto dei cani, per carità, però quando iniziano a essere troppi, sono troppi. Capito? Perché poi non sono solo i tuoi, sono anche quelli dei vicini, quindi se parte ad abbaiare il tuo o i tuoi, partono anche quelli. Un concerto, la sintonia di Beethoven, non si budietà nel modo più assoluto, no. Poi sai, l'estate c'è caldo, sei anche un po' così, ti corichi tardi, quindi e parte di chi ti goce, no, non è roba per me, no. Però guarda, ci sono stato io, adesso qua, io qua non sento una mosca volare qua, di chi ti goce non veni giù, cioè di chi ti casino, cioè, mi si stanno rilassando le orecchie, ma non è perché li voglio male, per carità, sono, capisco che è sempre un animale, però no, cioè non si può. E non è che si, cioè, io anche essendo il padrone, quello lì, non gliel'avrei fatto fare, assolutamente, a chi da voi basta, cioè, cioè, passava uno, un casino, non si muoveva tracra, non si muoveva vivinchi, vedrete. Lo so, però quando una cosa è tua non è che puoi stare lì a cicischiare, a fare tu, è così, la realtà è quella, però ti ripeto, il progetto è quello, stavamo avanti, adesso vediamo, la vedete questa casa cosa ne salta fuori, vediamo un po'. Capa, vedi un po'. Aspetta che ti mando un messaggio. Adesso capisci. Ehi, io sono qua. Ok, dai, grada, io già la posso. Ti saluto perché domani mi devo fare presto perché devo fare un sacco di cose. Dai, buonanotte, cra. Ci sentiamo. Ciao a tu, grazie alle due chiacchiere. Dai, due risate ce l'abbiamo fatta stasera. Assolutamente, rimango qua ancora, sia che entra Massimiliano. Ma non penso, se già le 11:10, non so, tu. Sono qua, ciao, buonanotte, a domani, poi noi ci vediamo lunedì mattina, ok? Già passo di là. No, domani mattina non posso assolutamente, non posso, perché abbiamo già preso un impegno. Dai, c'è già ci sentiamo, ok? Sì, al limite ci vediamo lunedì, altro non c'è problema. Ah, stai tranquillo, non ti preoccupare. Ok, ciao. Ciao a tutti. Oh.